Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi incontriamo un personaggio molto popolare, un giornalista, un grande divulgatore, autore di libri fortunati, alcuni dei quali scritti con Indro Montanelli, l'avrete capito, è Roberto Gervaso, che ha scritto per Mondadori Ho ucciso il cane nero, come ho sconfitto la depressione e riconquistato la vita, 184 pagine, 17 euro. Il cane nero, come avete sentito dal sottotitolo, è appunto la depressione, che Gervaso definisce una vera e propria malattia, una malattia terribile, la più terribile, il male oscuro, come il mio vecchio indimenticabile amico Giuseppe Berto continua, definì la depressione, di cui per 10 anni soffrì come un condannato a morte, cui veniva sadicamente rinviata l'esecuzione. E questa malattia, tra l'altro, avrebbe accomunato al suo maestro Gervaso, cioè proprio a Indro Montanelli, che soffrì anche lui dello stesso male, e che un giorno volle tranquillizzare proprio Gervaso dicendo, leggo dal suo libro, ne uscirai, mi rincuorò, ne uscirai e ne uscirai più forte, più maturo, più responsabile, più riflessivo di prima, è curabile, basta stringere i denti, serrare i pugni, tendere fino all'ultimo palmo la volontà. E proprio Montanelli, per scuoterlo da una prima crisi, lo fa assumere al Corriere della Sera, dove Gervaso inizia una fortunata carriera giornalistica che nel libro viene ripercorsa in un excursus che ci fa incontrare alcuni tra i grandi personaggi del giornalismo e della politica italiana negli ultimi 50 anni. E allora sentiamo adesso l'autore. Buonasera Roberto Gervaso. Buonasera. Roberto Gervaso, in questo libro si parla anche della depressione, della sua depressione, che lei definisce una patologia dell'anima. Ecco, ma con l'esperienza che se ne è fatta lei, come si esce dalla depressione e soprattutto come la si può affrontare? È un rogo dell'anima, che nessuno, cioè, ce la chiamava il cane nero, Alberto, il male oscuro. È una malattia di due tipi, quella maggiore melanconica, che è terribile, che può essere che spesso è bipolare, cioè passa da uno stato di euforia parossistica a uno stato di disperazione profonda, oppure quella minore, ansiosa, che tante persone hanno. Uno dice, quante persone ti avranno detto, ma oggi sono un po' giù di corda, sono un po' depresso, sono stanco, sono sonnolente. L'altra invece è drammatica, l'altra è la disperazione. E c'è anche una componente biochimica ed è la caduta, nel mio caso fu un crollo di serotonina. Poi ci sono sempre dei momenti accidentali, delle cause scatenanti, ma le cause vere sono profonde. Le cinque cause di depressione sono la prima è un grave lutto, una grave malattia, la perdita del lavoro, il divorzio e non il matrimonio, stranamente, e trasloco. Ogni volta che mia moglie trasloca, infatti non traslochiamo più, in un caso di depressione. È sicura quella grave, quella drammatica che ho avuto io. C'è una persona che vuole molto bene, molto affezionata, dice, arriva dopo che è nata, da Londra a mezzogiorno, deve prendere l'aeroporto, a mezzogiorno non arriva, a mezzogiorno e mezzo non arriva, a un certo punto si rivolge l'informazione dice, no, non sappiamo nulla. E prende questo morso terribile del cane nero allo stomaco, al cervello, e in ogni caso si risolve, qualcosa è successo, vero? Per me questo stato d'animo di disperazione cosmica, è durato 5 anni. Si guarisce con dei farmaci, si guarisce con la pazienza, anche perché è una malattia che non si vede e chi non l'ha avuta non la capisce. Se una donna mi spiega le doglie, io non ho ancora avuto, le ho avuto tutta la vita. Io non posso immaginare cosa sono le doglie, però che durano poco. La depressione, ci sono persone che portano depressione con sé tutta la vita, che si curano anche male. Comunque bisogna andare solo e soltanto dallo psichiatra e dalla depressione si guarisce sempre. Lei denuncia in effetti nel suo libro questo aspetto, l'incomprensione che circonda la depressione, proprio perché non la si vede, si tende a minimizzare questo male. Ma chi è vicino non ha una sintomatologia palpabile, visibile, è l'anima che è malata, è la coscienza che è disperata, quindi chi non l'ha avuta non può saperlo. Non è che mi viene mal di stomaco, uno può psicosomatizzare, ma di solito non si ha una sintomatologia parallela. È semplicemente disperato di giorno, disperato di notte. Non c'è una tregua, io poi avevo monopolare, no, unipolare, non bipolare, per cui ero sono stati 5 anni di uno stato d'animo, una catastrofe dello spirito, e ho avuto 3 depressioni. Anche in questo lei ha seguito il suo maestro, perché anche Indro Montanelli soffriva di depressione. Come l'ha vissuta? Io racconto nel libro anche la depressione di Montanelli, perché il libro non è soltanto la depressione, cioè è tutta la mia vita, gli incontri, gli amori, amorazzi, cioè tutto quanto, è un'autobiografia questa, è anche un aspetto divertente con delle pagine che sono drammatiche, ecco questo sì. E io ricordo che un giorno eravamo a passeggio a Villa Borghese, poi devo scottere il mio fisico, stancarmi, fare lunghe, lunghissime camminate, e poi così la sera sono stanco e mi addormento. Purtroppo ci si addormenta e si piomba in uno stato di angoscia, sogni popolati, pieni di incubi, sparvieri, animali favolosi, coccodrilli, iguana, acquitrini, paesi che non si possono mai raggiungere, il telefonino che è fuori uso. E io lo accompagnai a passeggiare, io avevo 30 anni, lui ne aveva 58, e lui a un certo punto a Villa Borghese un giorno mi abbracciò, si mise a piangere come un bambino e mi disse: Robertino, come si chiama Robertino, mi voglio eliminare perché non ce la faccio più. Ed è un sentimento che ho avuto anch'io tante volte, quello di farla finita, soltanto che a un certo punto ho pensato che anche quello fosse un palliativo, che non servisse a niente, che doveva passare, infatti è passata, ed è anche una grande esperienza spirituale, morale, psicologica, perché la sofferenza, il successo è l'impostore, la sofferenza è una grande maestra di vita. Ecco, veniamo agli altri aspetti che lei tocca nel suo libro, per esempio le donne, qui ne troviamo un lunghissimo catalogo, che cosa hanno rappresentato per lei? Sono state anche una terapia per la depressione? No, quando uno è depresso è completamente impotente, no, tutto pensa, meno che alle donne. Le donne sono state un grande terapia, un grande piacere quando fra una depressione e l'altra, ma nessuno, non esiste il desiderio, quel desiderio quando si è depressi. No, io non ho amato le donne, io ho amato la donna, sono sempre stato fedele all'infedeltà, del resto la fedeltà è un forte prurito con la proibizione di grattarsi. Io mi sono molto grattato, soprattutto prima di conoscere Vittoria, mia moglie, che è una donna siciliana, occhiutissima, volpina, e quindi poi una donna stupenda, bellissima, la prima indossatrice di Valentino. Quindi io avevo il grande libertinaggio, io l'ho esercitato anche con orgoglio fino a 63 anni, quando il professor Rigatti mi ha operato alla prostata e sono diventato finalmente impotente. Nel libro si parla molto di giornalismo, della sua carriera, di giornalisti. Come ha visto cambiare questa professione nel corso della sua vita, nel corso della vita che racconta? È come se io ho fatto il giornalismo in doppio petto. Adesso è un giornalismo in Bermuda, è cambiato tutto. È cambiato lo stile, è cambiata la cultura, è cambiato il comportamento dei giornalisti, non c'è più la grande scuola. Io ho avuto 3 maestri come Montanelli, Prezzolini e Buzzati. Chi è che li ha avuti questi 3 maestri? I quali soprattutto Prezzolini mi ha avviato alla conoscenza e alla lettura dei classici. Io scrivo ancora con la lettera 22 realizzata da Montanelli, non so usare il computer, adesso ho 77 anni, questo è un lusso che mi posso permettere. Era un mondo, io ricordo le passeggiate, andavamo a cena a Bagutta e poi uscivamo a passeggiare un ragazzino con Montanelli, a Feltra e Buzzati. Ma chi è che ha avuto questi privilegi? Andava a trovare almeno una volta al mese Prezzolini a Lugano in via Motta. Io sono stato anche fortunato che c'erano i grandi maestri che oggi non ci sono più, e poi lo strumento è cambiato tutto, ma io credo che la sostanza non sia cambiata. Cioè, il giornalismo prende un'altra forma, indossa un altro abito, tirato fuori da un guardaroba dove ce ne sono tanti, in ogni epoca almeno negli ultimi 2-3 secoli, quanti tipi di giornalismo abbiamo avuto. Anche ai tempi dei romani c'erano gli acta di urna, e si scriveva con la penna d'oca o con uno strumento di incisione sulla pergamena o sulle tavolette di cera. È cambiato tutto, però il giornalista resta sempre. Ecco, il giornalismo è cambiato, gli strumenti del giornalismo sono cambiati, ma lo spirito del giornalismo il temperamento, lo spirito del giornalista sono gli stessi. Grazie a Roberto Gervaso, autore di Ho ucciso il cane nero. Buona serata. Grazie, grazie a voi. Un grande giornalista del Novecento è stato Giovanni Ansaldo, vissuto tra il 1895 e il 1969, che diresse Il Telegrafo e Il Mattino e fu autore di libri molto fortunati. Di lui l'editore Aragno pubblica le memorie in due volumi, dal 1920 al 1930, sono 812 pagine, 50 euro. Ansaldo era genovese, cominciò a scrivere sul lavoro nel 1920 e l'ambiente genovese, tra l'altro, viene rievocato con grande efficacia nella prefazione a questo libro di Giuseppe Marcenaro. Ansaldo era massone, vicino alla sinistra democratica, già amico di Piero Gobetti e soprattutto grandissimo scrittore. Dice infatti Marcenaro che qualcuno avrebbe detto che Ansaldo scriveva in latino, il suo stile era sontuosamente parlato, spesso traslato dal dialetto. Diventa poi un punto di riferimento per gli antifascisti all'inizio del regime, tenta a un certo punto la fuga per andare in Svizzera, ma viene arrestato e va al confino a Lipari. Ne uscirà ben presto, però senza aderire all'antifascismo militante, ma deciso a curare la sua spregiudicatezza di spirito e libertà, così la definiva, per commentare la cronaca, fino poi alla rottura con molti antifascisti e alla vicinanza a Leo Longanesi, il più scomodo dei fascisti, lo definisce così Marcenaro, che gli farà concedere alla fine, negli anni 30, la tessera del Partito Nazionale Fascista. E abbiamo la fortuna di avere qui con noi Roberto Gervaso, allora gli chiedo se lui ha conosciuto Giovanni Ansaldo. Giovanni Ansaldo. No, io ho due o tre lettere di Giovanni Ansaldo, però non l'ho conosciuto. Scrisse una lettera, lui mi rispose, poi lui morì molto presto Sì. ed era molto amico di Ciano. Sì. Era molto amico di Ciano che gli diede la direzione del telegrafo, lui era genovese avarissimo e anche lui dava del tuo a Longanesi, del lei, perché Longanesi faceva dare del lei da tutti, salvo che da Montanelli. So, una cosa bella aneddoto che me lo raccontò la Feltra. Che ormai era con un piede più di là che di qua, doveva morire da un momento all'altro. Lui convocò il medico e disse: mi faccia morire nel tardo pomeriggio, perché sennò domani finisco nei giornali del pomeriggio, che non è letteratura, è meno vendita. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Da martedì scorso, dunque, è entrato nel pieno delle sue funzioni il nuovo Presidente della Repubblica. Gli facciamo tanti auguri e a voi segnalo dei libri che hanno a che fare con questa nuova fase della Repubblica e col funzionamento delle istituzioni al vertice delle quali c'è appunto Sergio Mattarella. Innanzitutto vi segnalo un libro sul predecessore di Mattarella, cioè Giorgio Napolitano, sul quale ha scritto un volume un esperto. È un docente universitario di diritto costituzionale, si chiama Gino Scaccia e il titolo del libro è Il Re della Repubblica, cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio Napolitano. È pubblicato da Mucchi Editore, 150 pagine, 18 euro. L'autore qui prende atto che Napolitano ha impresso uno stile molto particolare alla sua presidenza, anzi alla sua doppia presidenza, uno stile dovuto sia alle esigenze dei tempi che si sono presentati, sia alle convinzioni, al temperamento dello stesso Napolitano. E Scaccia qui esamina da un punto di vista giuridico e costituzionale appunto l'evoluzione della figura del Presidente della Repubblica. Il libro però è interessante per tutti, anche se è scritto da un esperto, perché ci fa capire molti fenomeni di cui siamo spettatori spesso ignari, e il libro parte da una constatazione, cioè che, come scrive l'autore, lo spaesamento e lo sradicamento culturale indotti dalla globalizzazione spingono verso la ricerca di figure paterne capaci di offrire stabilità, istituzioni unipersonali che compensano sul piano simbolico, aggiunge l'autore, la perdita di sicurezza e di identità provocate dalla lacerazione delle legature familiari, religiose e sociali e dalla diffusa precarietà economica e addirittura affettiva. Conseguenza di questo fenomeno è la legittimazione politica di una leadership di tipo carismatico plebiscitario, che serve appunto a cogliere, a capire quale sia stato lo stile di Napolitano, il perché si sia affermato questo stile e il segno che Napolitano lascia con la sua doppia presidenza. Nel libro si considerano le varie fasi della presidenza di Napolitano, dal 2006 fino allo scorso mese. Si esamina come Napolitano abbia esercitato i propri poteri, a partire dal rapporto con i governi, dal ruolo di kingmaker che assunse soprattutto al momento di designare Mario Monti come presidente del Consiglio, un momento che qui è considerato una grave dimostrazione di impotenza delle forze politiche. Poi si parla dei rapporti con il Parlamento, con la magistratura. E allora, alla fine, che cosa resta di questo lungo, lunghissimo periodo di presidenza di Giorgio Napolitano? E quali sono le innovazioni più importanti di questo periodo? Dice Scaccia che quella di Napolitano è stata una presidenza più sfaccettata e ambigua di quanto risulti da alcune agiografiche ricostruzioni, e il giudizio non è privo di ombre dal punto di vista costituzionale, perché secondo l'autore Napolitano ha inaugurato o contribuito a consolidare prassi discutibili sul piano istituzionale che è improbabile restino isolate. Così cambia radicalmente, naturalmente, il profilo del Presidente della Repubblica, dal principe senza scettro, il presidente fannullone di cui parlava Vittorio Emanuele Orlando, si arriva appunto al re della Repubblica. E dopo aver parlato del predecessore di Mattarella, parliamo del competitor principale di Mattarella, e cioè di Giuliano Amato, ex presidente del Consiglio, pluriministro, attualmente anch'egli, come Mattarella, fino al momento della sua elezione al Quirinale, giudice della Corte Costituzionale. Questo di Amato, un libro insolito interessante, si intitola Le istituzioni della democrazia, un viaggio lungo 50 anni, pubblicato dal Mulino, 472 pagine, 33 euro, ed è insolito perché questo viaggio in quattro tappe, ciascuna delle quali viene introdotta da un altro noto studioso, e quindi abbiamo Maurizio Fioravanti, Augusto Barbera, Giulio Napolitano, Sabino Cassese, che introducono rispettivamente i temi dell'evoluzione della forma di governo, dell'espansione delle libertà, dei rapporti con l'economia e dei rapporti con l'Europa. E questo libro raccoglie vari scritti di Amato, dei quali l'autore fornisce alcune chiavi di lettura sono indirizzate a costruire, a definire il modello ideale di democrazia che per Amato deve essere una democrazia fondata sul pluralismo del potere, una democrazia che ricostruisce i canali dell'interazione tra istituzioni e cittadini con la partecipazione dei secondi, una democrazia nella quale l'esercizio dei diritti e delle libertà non porta al solipsismo ma è responsabilmente attento agli altri e insieme, facendo suoi doveri di solidarietà e promuovendo così non diseguaglianza ma giustizia, una democrazia nella quale il potere è diffuso e possibilmente triturato grazie alla concorrenza, una democrazia che alloca le funzioni pubbliche in base ai bisogni e non alle autodifese di chi già le possiede, infine una democrazia che getta generosamente la sua rete verso la scala globale. E questa democrazia si realizza attraverso tante scelte politiche. Per esempio, sono particolarmente attuali le osservazioni che fa Amato sull'approccio da seguire nell'affrontare le cosiddette questioni eticamente sensibili, nelle quali il giudice costituzionale parte dal discorso di Ratisbona, da quello di Westminster di Benedetto XVI, il Papa, al quale egli attribuisce una straordinaria conclusione, una bellissima premessa, ossia, scrive, che è possibile un incontro nella società post-secolare tra tutti coloro che sentono il bisogno di rafforzare il tessuto etico e che hanno la saggezza di capire che ciò è reso possibile soltanto da soluzioni condivise, al di là della condizione di ciascuno, di credente o non credente. Un altro libro sulle istituzioni, anzi sul rapporto tra popolo e istituzioni, è quello di un altro docente di diritto costituzionale, Umberto Allegretti, si intitola Storia Costituzionale Italiana, è pubblicato dal Mulino, 280 pagine, 24 euro. Questo è un libro espressamente rivolto a un pubblico generale che ci aiuta a capire che cosa sia veramente la Costituzione, esaminandola anche da vari punti di vista, non solo quello del giurista, e ci aiuta anche a riflettere sul ruolo che la Costituzione ha esercitato e potrà esercitare. E si comprende così che cosa è l'Italia stessa, che qui viene presentata storicamente nelle tre grandi fasi che l'hanno segnata: l'Italia liberale, l'Italia fascista, l'Italia repubblicana. E questa storia viene letta attraverso molte lenti. Per esempio, non manca il richiamo al carattere nazionale o al presunto carattere nazionale, e in questo ambito ci starebbe, per esempio, secondo l'autore, il particolarismo che ha molti volti, e poi ci sono tanti altri difetti che fanno parte di questo carattere, dallo scetticismo all'illegalità, ma anche molte virtù che ci dovrebbero permettere di affrontare con uno spirito diverso e più positivo la crisi di oggi, magari rinunciando alla pretesa che la nostra sia la più bella Costituzione del mondo, una convinzione che Allegretti non condivide e che quindi appunto non ci sia nulla da cambiare. In realtà, e spiega Allegretti, ci sono tanti nuovi modelli costituzionali in corso, recenti, che hanno individuato forme più moderne di partecipazione del popolo alle scelte pubbliche. Quindi, parlando dell'oggi, Allegretti accenna una Costituzione sospesa tra congelamento e sblocco, il congelamento dovuto agli equilibri della guerra fredda e allo sblocco seguito alla grande ventata del 68 e dell'89, che hanno modificato radicalmente molti presupposti. E l'autore esamina anche le proposte attualmente in agenda, proposte che dovrebbero consentire di uscire da un'inconcludenza trentennale, come scrive, e qui conclude con un'osservazione simile a quella da cui siamo partiti a proposito di Napolitano. Scrive infatti l'autore che l'espansione dei poteri presidenziali, sommata all'eccezionale rielezione di Napolitano alla carica suprema, aggiunge un ulteriore elemento di natura quasi carismatica ai fatti cui ci è toccato di recente di assistere. Il fatto è che le democrazie hanno la loro base nel popolo e quindi occorre che l'Italia riguadagni, scrive, le anomalie che presenta su questo terreno, applicando, conclude, una forza morale e pratica collettiva che vinca le ragioni dell'inerzia portatrice di continuità della crisi. Veniamo adesso a un fatto di cronaca di cui abbiamo letto nei giorni scorsi, completamente diverso questo. Martedì scorso, la Camera dei Comuni a Londra ha approvato una legge che consente una tecnica di fecondazione artificiale che si chiama donazione mitocondriale, che consente di evitare che le malattie genetiche particolarmente gravi si trasmettano da madre a figli. È la legge che è stata chiamata sui giornali del bambino con tre genitori e che ha suscitato e continua a suscitare un'enormità di polemiche per le frontiere anche etiche che in qualche misura attraversa. E quindi questa polemica e questa legge conferma la centralità sempre maggiore delle questioni etiche, di cui appunto ci parlava poco fa nel suo libro Giuliano Amato, nel dibattito pubblico. E proprio questo aspetto affronta il libro dello scrittore inglese Ian McEwan, che si intitola La ballata di Adam Harry, pubblicato da Einaudi, 206 pagine, 20 euro, tradotto da Susanna Basso. Questo è un romanzo di cui è protagonista Fiona May, un giudice dell'Alta Corte di Giustizia che tratta questioni di famiglie. La protagonista sta attraversando un momento particolare della sua vita, perché è sposata con un suo coetaneo, ha circa 60 anni, e il marito a un certo punto rivendica una scappatella legalizzata, nel senso che chiede alla moglie ufficialmente di poter avere una relazione che gli permetta di avere quella passione erotica che la moglie non gli consente più, di avere nell'ultimo periodo della sua vita appunto questo momento. Naturalmente questo crea un grosso momento di disturbo nella coppia, ma proprio in quel momento la giudice deve affrontare un caso particolarmente delicato. È quello di un ragazzo, figlio di genitori testimoni di Geova, quasi diciottenne, la cui vita è affidata a una trasfusione di sangue che sia i genitori che lo stesso interessato non vogliono venga effettuato per ragioni religiose. Quindi uno di quei casi particolarmente delicati nel quali, come scrive l'autore, si scatena l'intero circo equestre che, montando con l'estenuante lentezza della gerarchia giudiziaria, ricordava piuttosto il decollo sghembo di un pallone aerostatico difettoso. Dopo un colloquio abbastanza inconsueto con Adam, che è il nome del ragazzo e del ragazzo malato, Fione metterà il giudizio, alla base del quale c'è la propria convinzione che la vita del giovane sia più preziosa della sua dignità. E questa decisione avrà una conseguenza imprevista e drammatica sia sul ragazzo che anche sulla vita dello stesso giudice. E sentiamo dal libro le prime riflessioni suscitate nel giudice Fiona dal caso che appunto dovrà andare ad affrontare. Fiona osservò il gatto di un vicino aggirare meticolosamente una pozzanghera e sparire nel buio sotto un cespuglio. Non le spiaceva che Jack se ne fosse andato. Il loro discorso puntava dritto nella direzione di una franchezza atroce. Inutile negare il sollievo di trovarsi restituita al territorio neutrale, alla landa brulla dei problemi altrui. Ancora una volta c'era di mezzo la religione. Di certo offriva anche qualche conforto, poiché il ragazzo aveva quasi 18 anni, l'età dell'autonomia in base alla legge, la sua volontà avrebbe giocato un ruolo di cruciale importanza. Dall'altra parte di Londra, un adolescente si trovava faccia a faccia con la morte a causa delle credenze sue o dei suoi genitori. Il compito di Fiona non era salvarlo, ma stabilire che cosa fosse logico e legale. Avrebbe voluto incontrare il ragazzo di persona, togliersi per un'ora o due dal pantano di casa, come pure da quello dell'aula di tribunale, mettersi in viaggio, lasciarsi assorbire dalla complessità del caso, esprimersi in una decisione che fosse frutto dell'osservazione diretta. Il parere dei genitori poteva coincidere e avvalorare quello del figlio, ma anche costituire una condanna a morte alla quale il ragazzo non osava sottrarsi. Di questi tempi cercare di farsi un'idea propria era visto come un'assoluta stravaganza. Fino agli anni Ottanta, un giudice avrebbe avuto facoltà di porre il ragazzo sotto la tutela del tribunale per i minorenni e poi di vederlo a porte chiuse in ospedale o a domicilio. Fino ad allora, l'ideale era in qualche modo riuscito a sopravvivere, per quanto ammaccato e arrugginito come un'armatura antica. Per secoli, i giudici avevano fatto le veci del sovrano in qualità di custodi dei bambini della nazione. Oggi come oggi, della faccenda si occupavano i dipendenti dell'ente assistenziale consultivo per la tutela dei minori, armati di verbali da redigere. Il vecchio sistema, pachidermico e inefficace, conservava un che di umano. Ora invece c'erano meno lungaggini e più moduli da compilare, più verità da accettare sulla fiducia. La vita di ogni bambino veniva scrupolosamente, ma meno affettuosamente, custodita nella memoria di un computer. E ancora un tema di attualità, di tragica attualità, è sollevato dal libro di Domenico Quirico, che ricordate, il giornalista della Stampa che fu rapito in Siria e tenuto prigioniero per 5 mesi. Il libro si intitola Il Grande Califfato, è pubblicato da Neri Pozzo, 238 pagine, 16 euro. Proprio durante la reclusione i jihadisti rivelano a Quirico nel giugno del 2013 il disegno di ridare vita al Califfato di Siria, che dovrebbe nel loro disegno abbracciare l'Europa dall'Andalusia all'Asia, e convinti gli jihadisti sempre che sia lecito uccidere per difendere la fede. Questo sconvolgente annuncio sembra allora un'esagerazione, un ballon de sé, ma Quirico ci ripensa, ne parla, quando ne parla praticamente non viene creduto da nessuno, ma ben presto lo stesso giornalista per primo e anche noi ci siamo dovuti accorgere che quel terribile programma ormai è una realtà, scrive infatti Quirico. Il califfato, lo Stato islamista, esiste già. Milioni di uomini ogni giorno gli rendono obbedienza, applicano e subiscono le sue regole implacabili, pregano nelle moschee secondo riti rigidamente ortodossi, vivono e muoiono invocandone la benedizione o maledicendone la crudeltà. E qui nel libro troviamo le tappe della mappa che segna questo califfato in costruzione, che va dalla Siria alla Libia, all'Algeria, alla Nigeria, e che si conclude con un capitolo il cui titolo non lascia dubbi: avanzano. Eppure, nota l'autore, la proclamazione dell'Emirato a un'ora di volo dall'Europa non sembra sollevare attenzione. La sensibilità resta intorpidita, attonita in questa Europa dalle cattedrali ingiallite, dalle risse medievali, dalle economiche rivalità belluine. Un eguale fatalismo riconcilia nella stessa ebetudine le vittime e i carnefici. E a questo punto il confettino. Torniamo in Inghilterra con il grande mito letterario di Shakespeare, forse il più noto, Amleto, che viene raccontato ai ragazzi da Ian Holm. Ci sono le illustrazioni del disegnatore russo Andrei Dugin e la traduzione di Alessandro Peroni, lo edita il libro Salani, 16 euro. Qua abbiamo testo e immagine per accostarci all'immortale personaggio di Shakespeare, di cui vengono isolate nel testo alcune delle frasi più celebri, e conclude il libro anche un elenco delle metafore animali alle quali Amleto frequentemente ricorre. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, il libro chiocciola24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.